puntata di Visionari di giovedì 15 dicembre del 2016. Ci ascoltate su queste frequenze anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, potete consultare il sito della radio sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Fabio Cavalli per parlare di una parte del Rebibbia City Fest all'auditorium di Rebibbia il prossimo 20 dicembre, cioè martedì. Fabio, intanto ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, la festa del cinema di Roma che continua durante l'anno a Rebibbia, è un po' così lo spirito? Sì, esattamente. Noi abbiamo cominciato a ottobre in concomitanza con la festa del cinema, abbiamo aperto l'auditorium di Rebibbia come terza sala della festa, abbiamo fatto varie proiezioni e poi abbiamo fatto questo grande evento in streaming con l'inferno dei detenuti che è andato sul web. Com'è andata? Auditorium. Bene, è andata benissimo. Un primo esperimento mondiale di diretta streaming da un carcere, full HD, insomma, di grande qualità, con l'inferno di Dante. E poi, per non farci mancare niente, abbiamo deciso con la Fondazione Cinema di continuare questa collaborazione, quindi il 20 col City Fest ritorniamo all'auditorium e facciamo due cose. Immodestamente una mia, che è Naufragio con spettatore, che è un corto sul tema dello jihadismo, reclutamento jihadista in carcere, che ha vinto una menzione speciale alla Mostra del Cinema di Venezia, e subito dopo, a seguire, facciamo un altro film, diciamo, di ambientazione penitenziaria, se così vogliamo dire, che è Fiore di Giovannesi, che è la storia, un racconto di un amore che nasce tra due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, all'interno di un carcere minorile. Loro non si possono ovviamente incontrare, però attraverso gli sguardi, biglietti, scambi a distanza, questo amore nasce e poi si consolida, naturalmente, come tutti gli amori adolescenziali, con i problemi dell'amore, con l'aggiunta dei problemi della separazione penitenziaria. A Casal del Marmo abbiamo sentito anche Claudio in occasione proprio dell'uscita in sala del film. Allora, Fabio, ci racconti un po' di questo tuo cortometraggio? Ma dunque, il tema del reclutamento jihadista in carcere è un tema caldo, suscitato dal ministro, suscitato dal dipartimento. La situazione è abbastanza sotto controllo. In occasione del premio Migrarti del Ministero dei Beni Culturali abbiamo presentato questo progetto, questo breve film, che racconta ancora una volta di come una realtà che esiste impatti nella vita di un detenuto egiziano che è dentro per spaccio e che per caso viene mandato in quella che è stata definita dall'Espresso la Guantanamo d'Italia, che ora è praticamente smantellato, cioè un carcere speciale dove erano stati rinchiusi i condannati per reati di terrorismo internazionale a Rossano Calabro, una realtà che adesso attualmente non esiste più, ma che è esistita fino a pochi mesi fa. E là questo ragazzo, che ama la pittura, incontra un imam che gli proibisce di dipingere, perché ci sono due hadith del profeta che vietano, pena la condanna infernale, ai pittori e agli scultori di dare vita alle loro opere, raffigurando la figura umana o la figura animale. Questo ragazzo, a cui francamente non importa nulla di problemi di questo tipo, teologico o teologico-politico, si trova in questa realtà. Questa è una storia che io ho ascoltato, che non è stata poi interpretata da colui che me l'ha raccontata, perché aveva paura. E quindi abbiamo trovato uno dei miei detenuti che ha recitato questo ruolo. Si svolge tra Rebibbia e Cassino ed è un inno ancora una volta all'arte come unico strumento di liberazione dai condizionamenti sociali, culturali, politici. Questa è la storia. Senti, com'è stata la lavorazione? È come al solito difficile, perché girare in carcere non è facile. Quando abbiamo girato Cesare deve morire, insomma, avevamo alle spalle la forza culturale, la forza di autorevolezza dei Fratelli Italiani. Oggi, diciamo, con le nostre forze è sempre complicato far entrare le telecamere, ottenere i permessi. Poi il tema del radicalismo islamista è un tema molto molto caldo, molto difficile da affrontare, quindi anche da parte del Dipartimento c'era qualche paura, insomma, che non si affrontasse l'argomento in modo duro, violento, contraddittorio, in contrapposizione. Invece poi fortunatamente è andato tutto bene, siamo stati anche a carcere di Cassino, dove abbiamo incontrato questo detenuto, Yassin, che ha fatto la colonna sonora. Lui è un cantante, è un marocchino, canta benissimo, autore, e ha fatto la colonna sonora cantando dal vivo, insomma, di questo cortometraggio, la cui avventura sta proseguendo. È stato già presentato una quindicina di carceri in Italia e in vari luoghi, insomma, della cultura, anche alla Festa del Cinema di Roma. E quindi bene, insomma, adesso finalmente approdare Bibbia là dove è nato, con i protagonisti in sala, ovviamente, sì, essendo detenuti. Sì. Senti Fabio, volevo chiederti anche parlando poi con chi il carcere lo vive e con chi hai realizzato questo lavoro, che idea ti sei fatto rispetto a questa tematica, appunto, dell'arruolamento tra virgolette in carcere? Ma guarda, è una questione molto complessa, perché in realtà i detenuti per quel tipo di reato in Italia fortunatamente non sono molti, o almeno quelli che so io non sono molti, un centinaio, e soprattutto non è tanto il problema dei radicali in quanto tali, ma il problema del non abbandonare i detenuti diciamo di fede islamica a loro stessi in un contesto penitenziario che non sappia fare mediazione culturale. Questo è il problema, insomma. Fortunatamente ci sono delle realtà come Rebibbia, dove per esempio la festa del Ramadan è gestita di comune accordo tra la comunità di Sant'Egidio e quella dei musulmani. Cioè ci sono degli esempi, come ancora una volta, ecco, nel carcere di Rebibbia ci sono degli esempi di convivenza, ma anche a Cassino, di convivenza tranquilla, normale, di mediazione continua tra le culture e le religioni. Altrove magari non è così, quindi è un lavoro da fare, perché poi il carcere è, come dice il titolo, insomma, naufragio, è la linea di approdo, no? Di tante persone che arrivano dal Nord Africa e si arenano sulla spiaggia del carcere. Sono circa 8.000 persone in questo momento nelle carceri italiane, e la questione è sempre quella di fare mediazione culturale tra questi mondi, insomma, perché poi questi escono e sono abbandonati a se stessi, e un po' come gli altri detenuti, peraltro, ecco, però questi in condizioni diverse, insomma, isolati nella loro comunità. Senti, se vogliamo fare, diciamo, se vogliamo essere un unico popolo anche con religioni diverse, bisogna pensarci da subito, già da quando arrivano, anche se sono detenuti. Fabio, dopo il Festival del Cinema di Roma e dopo questa proiezione del 20, che circuitazione avrà il tuo lavoro? No, il mio lavoro sta andando in giro soprattutto nei luoghi dove interessa di più, cioè nelle carceri. E poi è un corto di 15 minuti, quindi insomma non è che è un film da sala. Sono contento perché è stato molto apprezzato, è stato visto nelle scuole. Il 19 lo presento al carcere di Cassino, nelle università, sono a Milano adesso, lo presento a Statale, va bene, insomma, va bene così. Cioè, adesso speriamo di poter fare dei sequel di questa vicenda, trattando altri argomenti sempre legati al problema dell'integrazione, insomma. Allora, ripetiamo l'appuntamento all'Auditorium di Rebibbia il prossimo 20 dicembre, martedì, con un ulteriore appuntamento del Rebibbia City Fest. I riferimenti web, Fabio, ce ne sono? Sì, allora, chi volesse prenotarsi ce la fa ancora al sito www.enricomariasalerno.it, c'è la scheda di partecipazione. Benissimo. Fabio, ti ringrazio. Basta essere maggiorenni, basta avere più di 15 anni e non avere carichi pendenti con la giustizia. Allora io ti abbraccio, è stato un piacere, speriamo. Grazie. A presto. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Fabio Cavalli per quanto riguarda questo nuovo appuntamento del Re Bibbia City Fest. Matteo Raffaelli, regista del documentario La linea del Pasubio, che andrà in onda su Rai Storia mercoledì 21 dicembre. Ben ritrovato Matteo a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, benvenuti anche a voi, grazie. Ci eravamo sentiti un po' di tempo fa proprio per questo tuo lavoro. Per chi ci ascolta e non ricordasse o non avesse sentito, spieghiamo un po' di cosa si tratta, cos'è La linea del Pasubio. Dunque, La linea del Pasubio è il titolo che ho voluto dare a questo documentario sulla grande battaglia del Pasubio della Prima Guerra Mondiale. Come sappiamo, in questi anni sono i 100 anni, diciamo così, ricorrono i 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, quindi ci sono tutta una serie di attività di conoscenza, riscoperta e scoperta di quella che è stata una forse degli eventi storici più importanti, non solo italiani ma anche europei. Quindi la linea del Pasubio in buona sostanza era un confine, per quanto labile, che c'era appunto tra l'Italia e l'Austria. Questo confine si è modificato durante la Prima Guerra Mondiale costantemente, perché era la prima linea del fronte su cui combattevano i due eserciti, quello italiano naturalmente e quello austriaco. Quindi diciamo un'estrema sintesi, e questo è il mio documentario. Si parla nello specifico della battaglia che si è combattuta in quella specifica parte delle montagne italiane. Stilisticamente, come è costruito il tuo lavoro? Il mio lavoro è costituito da tre parti fondamentali: una, diciamo così, evocazione di quello che era l'umore, il clima che si respirava nelle trincee attraverso le lettere, i documenti lasciati dai soldati italiani, che sono letti da Peppe Servillo, che li interpreta in maniera straordinaria. Poi c'è una parte, diciamo, più storica, che è legata evidentemente al racconto di come si riuscì a costruire la linea delle 52 gallerie che porta al fronte. Quindi ci sono, diciamo, c'è un approccio più storico, più tecnico su quali furono, diciamo, su come furono dislocati e come fu dislocato l'esercito italiano in quella parte. E poi c'è anche una parte più, se vogliamo, artistica, legata all'intervento di Marco Nereo Rotelli, che è un grande artista contemporaneo, che in qualche modo rievoca attraverso delle installazioni luminose o delle performance pittoriche, diciamo così, cerca di offrire una visione anche più metaforica di quello che è successo in quel periodo. Matteo, che impressioni hai avuto da questa immersione storica e anche drammaturgica in quel periodo tragico? Credo che la prima cosa che ho capito è che la Prima Guerra Mondiale, da chi l'ha vissuta veramente, fosse una cosa assolutamente confusa e incomprensibile. Il dato più importante che ho raccolto è questa: la percezione che chi c'era non capiva cosa stava succedendo nella maniera più assoluta, come se tutti vivessero cercando disperatamente di salvarsi la vita o di conquistare una piccola vetta, oggi per noi assolutamente insignificante, come se tutto questo fosse completamente immerso dalla nebbia della ragione e della comprensione di quello che avveniva. Sì. Un piccolo dettaglio, che però non lo è: ci sono degli studi che praticamente hanno ricostruito quali erano i sogni, per esempio, dei soldati in trincea. Quasi tutti sognavano le stesse cose di eserciti diversi, cioè quasi tutti sognavano di volare e di vedere dall'alto il campo di battaglia, cioè il desiderio di capire cosa stava succedendo, perché in effetti nessuno di loro in qualche modo lo sapeva. Senti Matteo, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più e poi ricordi bene l'appuntamento del 21? Assolutamente sì. Rai Storia, che è un canale tematico che sta facendo molto per la prima guerra mondiale, mercoledì alle ore 22 è il documentario La linea del Pasubio, che ho avuto il piacere e l'onore di dirigere con Peppe Servillo, con gli interventi pittorici Marco Nereo Rotelli, di Beppi Magrin e lo storico Passarin, direttore del Museo Risorgimento di Vicenza. Questi sono i dati relativi naturalmente al documentario. Per quanto riguarda le cose da vedere, consiglio a tutti di fare un giro su internet semplicemente scrivendo Valli del Pasubio, le 52 gallerie, e si ha subito dalle immagini si ha un'idea assolutamente eccezionale del luogo in cui è stata combattuta questa guerra, e sicuramente da lì molti avranno voglia di trovare più informazioni e soprattutto andare a visitare questi posti che sono un vero museo a cielo aperto sulla prima guerra mondiale. Matteo, io ti ringrazio, speriamo di risentirci presto. Grazie a voi, lo spero anch'io. Ciao, un abbraccio. Ciao, buona giornata. Matteo Raffaelli, regista del documentario La linea del Pasubio su Rai Storia, mercoledì prossimo 21 dicembre. Eccoci con Fabiana Antonioli, regista del documentario L'ultimo viaggio del Conte Rosso. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa, Fabiana. Ciao, grazie a te, grazie a tutti. Allora, mi avevi comunicato di questo tuo nuovo lavoro che già è in distribuzione. Intanto, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' questa storia. Fabiana, cos'è L'ultimo viaggio del Conte Rosso? Sì, è un breve documentario, un dono alla tifoseria di una squadra di calcio un po' particolare in Italia, che è quella, secondo me, naturalmente, del Torino Calcio. Con una storia alle spalle particolarmente famosa e anche dolorosa, perché ricca di eventi tragici, uno dei quali il più grosso, quello legato al 4 maggio 1949, quando un incidente aereo portò via l'intera squadra. Il caso voluto, ed è il motivo per cui ti ho proposto di parlare di questo lavoro, il caso ha voluto che proprio quando noi per vari motivi abbiamo dovuto uscire in ritardo con la presentazione di questo lavoro, lo abbiamo fatto nella settimana in cui è caduto purtroppo l'aereo anche della squadra del Ciape, e questa cosa, insieme ad altre coincidenze legate alla lavorazione di questo documentario, ci ha così ulteriormente colpito. L'ultimo viaggio del Conte Rosso racconta le quattro partite conclusive di quel campionato del 49 successive all'incidente, giocate dalla primavera, perché proprio i giocatori famosi della prima squadra non c'erano più e vennero sostituiti addirittura vestendo le maglie e i guantoni degli altri per andare in campo, proprio per concludere sul campo questo campionato il cui esito era già noto, cioè era stato assegnato lo scudetto al Torino, però non era ancora vinto come differenza reti, ecco, sul campo, e queste partite vennero giocate tutte. E questa storia non l'ha raccontata mai nessuno, questi signori giovanotti di oramai 86 anni. Così si sono presi questa briga, insomma. Sì, alla fine hanno deciso di accettare, dopo un po' di insistenza, insomma, di raccontarsi. Secondo me negli anni precedenti non volevano mostrare questa cosa, così voler rischiare di tirare via l'attenzione a chi era senz'altro molto più bravo di loro sul campo. Però loro hanno vissuto una vita, cioè una vicenda straordinaria allo stesso modo, e quindi ci sembrava giusto farla raccontare dalla loro voce, ecco, e non a posteriori, e ci siamo riusciti. Sono ancora in ottima forma. Ecco, proprio a questo proposito volevo sapere che impressioni hai avuto dall'ascoltare queste voci. Beh, sicuramente di una forma di calcio, di sport che non è più quella che viene trasmessa dai media oggi, un senso veramente di sport di squadra, di condivisione non solo di calcio ma di tutto, di una vita intera. Uno di loro, Lando Macchi, ricordava che dormiva in un letto matrimoniale di una stanza d'albergo affittata insieme a Fadini, che era un giocatore del Grande Torino che cadde proprio a Superga, per cui ricordava questa vita da fratelli, priva di concorrenza tra così sul campo, ecco, proprio una condivisione di anche umana, ecco. Mm-hmm. Adesso il calcio non sembra più questo, non lo so se non lo è, se è solo una questione di, sai, diritti televisivi, di pubblicità, di marchi, poi magari insomma sul calcio, sul campo comunque devi giocare con i tuoi compagni, con cui devi avere comunque anche ora un rapporto, no? Sicuramente d'amicizia, perché sennò sì. Però è anche un'estrema semplicità, ecco, una vita semplice. Un calcio, sai, poi loro hanno poi avuto una carriera minima rispetto al Grande Torino, però uno di loro ad esempio ha allenato 15 squadre nei 20 anni successivi. Cioè anche a loro modo hanno avuto dei record anche loro, però di calcio vero, ecco, di calcio di provincia, di calcio di sport, sì, ecco, sì, di valori, sì, che non sono quelli che vedi in TV, ecco. Senti, Fabiana, com'è stato accolto il tuo lavoro? Molto bene, siamo molto contenti. Una volta tanto, perché anche questa è una produzione assolutamente indipendente, priva di finanziatori, non c'entra la società calcistica. Sì, certo, io sono tifosa, però comunque si voleva mantenere un'autorialità, fare un vero e proprio documentario che racconta una storia, ecco. E la tifoseria è legatissima a queste vicende, sì. Quindi lo comprano, per cui noi riusciamo almeno in parte insomma a compensare le spese. Ha avuto anche un buon riscontro sui quotidiani, sempre da autori granata, però addirittura Aldo Grasso del Corriere l'ha recensito, per cui ci ha fatto un regalo non da poco, perché è comunque un filmato di mezz'ora, una cosa molto semplice, ecco, nulla di oltre quanto sì. ho descritto, no? Sì, adesso. Sì. La curiosità è anche rispetto, la mia curiosità, volevo chiederti questo, rispetto a questa vicenda, com'è vissuta da una città che poi calcisticamente è divisa in due, c'è una squadra che poi ha preso il posto di quella anche storicamente e a livello di prestigio rispetto a quello che era invece il Torino. Sì, nel filmato viene proprio raccontato il dopo, per cui oltre queste quattro partite quanto accade e le vicende del Torino senza soldi iniziano da allora. Fu una tragedia anche economica, perché sì. Non fu fatta una vera assicurazione su quella squadra, come ricordò Mezzano, giornalista sportivo che abbiamo intervistato, così, che fa un po' da voce narrante. E si tentò la ricostruzione dello squadrone, che ovviamente non si riuscì a fare. Da lì iniziarono anni un po' cupi, ecco, per il Torino. Però non sono tante le città italiane che hanno due squadre di calcio. Credo che la rivalità in una città, appunto, è condivisa da pochi ed è un qualcosa che è un odio, non c'è un altro termine. Sì, molto irrazionale, certo. E soprattutto qui, soprattutto dai tifosi granata, dall'altra parte non vedo un tale astio. Certo, vincono sempre, no? giocano sulla superiorità. E invece, insomma, i cugini più deboli magari sul campo difendono, intanto hanno difeso per decenni una società che è anche fallita ed è rinata dalle ceneri, ma insomma, come ogni buon tifoso granata sa, ha avuto diversi tentativi di eliminarla proprio perché dava fastidio a una Juve più legata a un'azienda che adesso non c'è più, ma insomma era anche proprio un modo diverso di vivere la città, anche socialmente parlando, per cui non era solo un tifo calcistico, era ben altro. Quindi l'odio era profondissimo e adesso tutto questo non c'è quasi più, perché no, anche cambiati i tempi, sono cambiate tante cose, però da quante persone sono venute qui a citofonare all'ingresso del nostro studio per prendere la loro copietta, devo dire che soprattutto molte persone anche anziane che si ricordano ancora di queste persone, insomma il ricordo è sempre vivo e il tifo pure. Senti, e per saperne di più anche rispetto alla distribuzione sulla rete, dove si può cercare? Sì, guarda, c'è una, al solito, la pagina Facebook è quella più aggiornata, e il titolo è L'ultimo viaggio del Conte Rosso, ma è abbinato un altro documentario che avevamo fatto anni fa proprio per approfondire queste differenze sociali del tifare due squadre in una stessa città, che si chiama Finché morte non ci separi, per cui trovate questa pagina che recensisce entrambi i documentari, oppure sul sito di Filmica, che è la mia cooperativa, al caso di produzione di questo lavoro, trovate le informazioni, insomma ci contattate e ve lo mandiamo. Fabiana, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie tantissime. Ciao, buona alla giornata prossima. A tutti. Grazie, alla prossima. Fabiana Antonioli, regista del documentario L'ultimo viaggio del Conte Rosso, in distribuzione. Vieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione di Aquarius, in uscita in sala oggi giovedì 15 dicembre. Vieri, ben ritrovato. Ben trovati a voi, buongiorno. Tutto bene? Mi pare, non lo so, il film è stato accolto con critiche molto molto convinte e favorevoli. Tutti dicono che è bellissimo e che lei è una meraviglia. Effettivamente noi eravamo d'accordo fino a quando l'abbiamo visto, pensate, poi le reazioni non si sanno mai, no? In realtà. Quindi insomma, già è un passo buono, mi sembra molto confortante, vediamo un po'. Senti, per sommi capi, come lo racconteresti a chi ci ascolta? Allora, il personaggio centrale, che è quello di Sonia Braga, è una donna che è vedova, che ha avuto una malattia grave, che è stata critico musicale, che vive in una bella casa sul mare, non una casa lussosa, una casa borghese molto piacevole, con vista sul lungomare di Recife, che è una delle città del nord-est brasiliano, e a un certo momento rimane sola in questa palazzina degli anni 40 a tre piani, nel senso che gli altri proprietari hanno venduto alla speculazione. Il film incomincia più o meno quando viene fatta anche a lei un'offerta anche molto con quel certo tipo di prepotenza che la speculazione usa. Questo edificio, che si chiama appunto Aquarius, è già circondato di grattacieli, c'è un paesaggio di brutti grattacieli fitti senza più un filo di verde intorno, le solite cose che abbiamo visto succedere un po' ovunque, e lei invece non vuole assolutamente abbandonare questa casa, che è in realtà anche la sua memoria, è dove ha vissuto con il marito, dove ha cresciuto i figli e dove c'è questa sua immensa collezione di dischi in vinile, i suoi libri, cioè la sua vita, diciamo. Quindi c'è anche una difesa non tanto della proprietà, perché il problema non è quello, ma della memoria e della fedeltà a se stessi. Questo è lo spunto, l'inizio del film. Dopo, come si sviluppa la lotta di questa donna, che diventa una specie di resistente malgrado se stessa, non è che lei decide io sono la combattente, no, però si trova in circostanze per cui, essendo una donna sensibile, intelligente, colta eccetera, però diventa una resistente, e troverà modo di combattere, e poi naturalmente c'è tutto anche quello che sta intorno a questa situazione base, che sono i figli, che sono le amiche, che sono, non so, il bagnino che sorveglia ogni mattina il suo tuffo in mare, perché sempre di oceano atlantico si tratta, quindi, e così, eccetera, insomma, questo, molta musica di sottofondo, oppure vengono nominati alcuni dei grandi, la Bossa Nova, Elis Regina, Maria Bettagna, eccetera, insomma, c'è quella memoria lì, lo spirito di libertà degli anni 70. Ecco. Ti volevo chiedere come lo avete incontrato e come è venuta poi la decisione di distribuirlo. Beh, in sala l'abbiamo visto a Cannes, l'abbiamo cercato immediatamente di comprarlo, c'è stato naturalmente un po' le solite cose, le trattative eccetera, l'abbiamo preso. In quante sale? Adesso siamo usciti con 12 copie. Con 12 copie. Soltanto perché troviamo che quelle cose di tipo Panzer Division siano sbagliate per certi film. Poi vediamo se il film funziona, crescerà. Senti, la prova d'attrice di Sonia Braga? Ma quella lo chiedi a me, io la trovo straordinaria, affascinantissima, anche perché è una delle rare donne della sua età che non si sono tirate, non si sono stravolte, non si sono gonfiate, non si sono messe i maritozzi nelle guance, eccetera, eccetera. Quindi è meravigliosa, è bellissima con le rughe, è particolarmente affascinante. E poi, sai, una volta era talmente bella che non si pensava neanche alle sue doti da attrice, no? Boh, sì, certo. Ma non ci si pensava, non è che nessuno diceva, ah, quanto è brava, no? Uno diceva, quanto è bella, quanto è affascinante, eccetera. Adesso, che ha più di 60 anni, ti rendi conto che in effetti è una che tiene la scena, che costruisce un personaggio con una grandissima intelligenza e anche con molte sfumature, insomma, molto molto notevole. Senti, e per saperne di più anche rispetto alle città che lo ospitano, i riferimenti web sono il sito e la pagina della Teodora? Sì, certo, naturalmente. Bene. Comunque è uscito nelle principali città italiane come sempre, e poi speriamo di allargarlo. Benissimo. Vieri, un abbraccio e alla prossima. Anche a voi. Ciao, a voi. Ciao. Arrivederci. Vieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione del film Aquarius in uscita in sala oggi giovedì 15 dicembre. Emanuela Giovannini dell'associazione Adinaton per parlarci del progetto Innocenti Evasioni nell'Istituto Penale per Minorenni di Casal del Marmo il prossimo giovedì 22 dicembre. Emanuela, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Dunque, si tratta di un laboratorio di cinema che noi facciamo a Casal del Marmo. In realtà la nostra associazione è lì dal 2001 e abbiamo sempre fatto laboratori teatrali con qualche attività a corollario, e questa è una di quelle. E i ragazzi durante l'anno hanno visionato dei film e studiato l'Italia attraverso il cinema italiano, e insieme a questa visione di film sono stati giurati di un concorso per cortometraggi nazionale, quindi gli artisti, i videomaker, i registi ci hanno mandato le loro opere. I nostri ragazzi, insieme a una giuria tecnica fatta di esperti, ha valutato il migliore, il vincitore, che verrà premiato il 22 dicembre dentro l'istituto. Senti, come nasce questa iniziativa? Dunque, nasce perché per una serie di problematiche organizzative quest'anno era impossibile fare teatro, perché non avremmo potuto realizzare uno spettacolo finale. Sì. E di conseguenza abbiamo scelto di aprire questo progetto di visione del cinema e di studio del cinema. E nel frattempo siamo stati beneficiari di un contributo regionale dell'assessorato alla cultura, politiche giovanili della Regione Lazio, per un'iniziativa appunto di uso del cinema a contrasto della marginalizzazione e del disagio sociale, e quindi ecco, eccolo qui. Senti, come sarà strutturato l'appuntamento? Dunque, è all'interno di una grande festa che si fa dentro il carcere per fare i saluti di Natale ai ragazzi, e quindi ci sarà prima della premiazione uno spettacolo di comici, e poi c'è la nostra premiazione, quindi i ragazzi incontreranno il regista vincitore e saranno insieme ai giurati, che sono Francesco D'Ayala, Gino La Monica, Paolo Conticini, Eva Grimaldi e Simone Moraldi, e premieranno appunto il regista vincitore e si vedrà insieme, tutti insieme, il corto. Dopodiché ci sarà un grande pranzo offerto da un'associazione e preparato dallo chef stellato Morato, mi pare che si chiami. Mm-hmm. Dovrebbe essere molto famoso, ma io non lo conosco. Senti, ci dai riferimenti online per saperne di più? Sì, dunque il nostro sito è www.adinaton, scritto con la Y, con la Y.it, e abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Premio Innocenti Evasioni, oppure Officina di Teatro Sociale Adinaton. Benissimo. Emanuela, io ti ringrazio, un in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. A presto. Dice il lupo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, arrivederci. Emanuela Giovannini dell'associazione Adinaton sul progetto Innocenti Evasioni all'Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo a Roma il prossimo giovedì 22 dicembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Se ci ascoltate in diretta sono gli 87.9 modulazione di frequenza. C'è anche lo streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ma questa vai a dire? Eccoci in collegamento con Enrico Nosei, curatore della rassegna Demoni privati, perversioni del potere, spettri del nazismo, allo spazio Oberdan di Milano da ieri 14 dicembre fino al 3 gennaio 2017. Enrico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, grazie a voi. Allora, una rassegna che ci interessava molto già a partire dal titolo, raccontiamo un po' di cosa si tratta. Ma insomma, tutto parte da due spunti essenzialmente. Intanto la possibilità di programmare in anteprima un film importante come Fritz Lang, che è stato presentato al Festival di Roma, all'ultimo Festival di Roma, che abbiamo inserito anche nella tre giorni del Noir in Festival, che da quest'anno si è spostato in Lombardia con una prima tappa a Como, una seconda a Milano. E infatti la prima proiezione, che è stata appunto ieri sera in presenza del regista Gordian Maug, faceva parte del programma del Noir in Festival. Però poi il film, essendo appunto un'anteprima che noi abbiamo acquistato dalla produzione, farà altri 12 passaggi fino al 3 di gennaio. Il film però, Fritz Lang, che è un film di finzione, non è un documentario, ci tengo a precisarlo, dove Fritz racconta, diciamo, la preparazione da parte del grande regista tedesco di uno dei suoi capolavori e suo primo film sonoro, Memorie di Düsseldorf, quindi siamo nel 1930, e ci racconta un Fritz Lang un po' diverso da quello che tutti noi magari ci siamo immaginati, perché ci racconta un uomo, diciamo, con luci ed ombre, con i demoni privati, sono del titolo della rassegna, sono i suoi. Sì. Le sue ossessioni. Fritz Lang era stato accusato, non era stato accusato, ma insomma la sua prima moglie era morta in circostanze, era morta di morte violenta, in circostanze misteriose, qualcuno aveva sospettato che fosse lui, poteva essere il responsabile, eccetera. Un uomo abbastanza complesso, quindi, e il film ce lo mostra appunto in questa preparazione di M, che come tutti sanno, insomma, racconta di uno psicopatico serial killer di bambini, di bambine anzi, per la quale peraltro Lang si ispirò a un fatto di cronaca vero che era accaduto in quegli anni appunto in Germania. Qualcuno ha giustamente ricordato A sangue freddo di Truman Capote, che fu un romanzo inchiesta su un fatto di sangue avvenuto nel sud degli Stati Uniti. Però siamo anche nel 1930 e quindi gli spettri del nazismo, tanto per continuare a citare il titolo della rassegna, si stavano facendo sempre più incombenti. La Repubblica di Weimar era in grande crisi e la scelta di Hitler, che poi sarebbe arrivata nel 1933, cominciava a essere nell'aria. Quindi abbiamo pensato di affiancare alle proiezioni di Fritz Lang alcuni altri titoli che dessero un po' conto, che in qualche modo centrassero con proprio il tema, diciamo, di quegli anni, di quei problemi, di quelle perversioni, di quelle violenze che si sarebbero manifestate tragicamente di lì a poco. Mm-hmm. Senti, tu stavi continuando. No, non volevo parlare solo io, se hai qualche domanda, poi se no ti dico appunto quali sono questi altri titoli, ma non facciamo che... No, magari come è articolata la rassegna, se ha delle giornate fisse e come sono strutturate? No, non ha delle giornate fisse, la rassegna appunto finisce il 3 gennaio con l'ultima proiezione del film Fritz Lang, però ci sono appunto questi altri appuntamenti. Abbiamo ripreso un film molto interessante, molto strano, che è uscito quest'anno, che si chiama Lui è tornato, che immagina il risveglio di Adolf Hitler 70 anni dopo la sua scomparsa. È un film che è stato nelle sale due giorni, insomma, ha fatto una specie di evento speciale, ma poi è un po' uscito dai radar della distribuzione. E questo anche è un film che programmiamo, diciamo, in sei passaggi, fra cui anche la sera del 31 di dicembre. Poi abbiamo, naturalmente non potevamo non fare M, il mostro di Düsseldorf, che è il film, diciamo così, intorno al quale gira il film Fritz Lang, e poi insomma è un capolavoro. Tra l'altro noi abbiamo di questo film una pellicola 35 mm restaurata qualche anno fa in splendide condizioni, in versione sottotitolata in italiano naturalmente. Non poteva mancare Il testamento del dottor Mabuse, altro film di Fritz Lang del 1932, uscito nel 1933, questo ancora più vicino, diciamo così, agli spettri del nazismo, perché il protagonista, appunto il dottor Mabuse, è un criminale diciamo che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico, ma è un vero e proprio despota, un vero e proprio tiranno, e quindi la vicinanza, diciamo, con la figura di Adolf Hitler è ancora più precisa. Poi abbiamo ripreso un film uscito un paio di mesi fa, che è Lettere da Berlino, ambientato nel Berlino del 1940, anche questo è un film molto interessante che racconta la storia di una famiglia di operai, sono un marito e moglie, che hanno un figlio al fronte, che quando viene ucciso trasforma queste due persone diciamo in due attivisti antinazisti, cosa di cui, cioè, che fanno un'attività quindi politica in qualche modo, e si mettono nei guai perché il loro darsi da fare non passa inosservato alla polizia, diciamo, nazista, alla Gestapo, alla polizia hitleriana. Sì. C'è poi, abbiamo voluto inserire l'omaggio che fece Woody Allen a Fritz Lang con Ombre e nebbia, che è un film molto langhiano, anche perché racconta la storia di un maniaco strangolatore negli anni 20 in Est Europa. Lo fa naturalmente con i toni della commedia tipici di Woody Allen, ma anche dal punto di vista estetico, un film in bianco e nero, riprende molto, diciamo, l'estetica post-espressionista che adottò lo stesso Fritz Lang, che poi trasferì anche negli Stati Uniti dopo che Lang, come tutti sanno, nel 1933 fuggì dalla Germania via Parigi per sbarcare poi negli Stati Uniti e realizzare tanti altri capolavori. E infine, ultimo ma non ultimo, abbiamo inserito anche un film che si intitola Der Verlorene, un uomo perduto, nella versione italiana, che uscì a suo tempo, un film del 1951, perché è l'unico film da regista di Peter Lorre, che è il grande attore, tra l'altro protagonista di M, e peraltro dove si racconta la storia di un medico assassino, e quindi che ancora, diciamo così, può entrare dentro, diciamo, questa definizione che abbiamo dato della rassegna, questo titolo della rassegna, sui demoni privati degli individui. Enrico, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? La programmazione sì, o sul sito generale della Cineteca, www.cinetecamilano.it, oppure oberdancinetecamilano.it, che è il sito specifico di Spazio Oberdan, dove potete trovare tutte le schede, naturalmente il calendario, i giorni, gli orari, le repliche, insomma tutte le informazioni essenziali per poter venire al cinema e scegliere quale film voler vedere. Sono tutti molto belli, sono tutti film, alcuni insomma dei capolavori riconosciuti, altri film più da scoprire, ma davvero tutti molto interessanti, a partire proprio dal Fritz Lang di Gordian Maug, che è un'anteprima italiana, come ricordavo in precedenza. Un abbraccio e risentirci presto. A voi, vi ringrazio. Ciao Enrico. Ciao. Salve, salve. Enrico Nosei, curatore della rassegna Demoni privati, perversioni del potere e spettri del nazismo, allo Spazio Oberdan di Milano, da ieri 14 dicembre fino al 3 gennaio. Eccoci con Claudio Storani della Rete degli Spettatori per presentare A Tutto Schermo, cominciato il 13 scorso fino al 19 dicembre. Claudio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie di avermi invitato. Eccoci. Allora, A Tutto Schermo, questa rassegna dal 13 al 19, com'è composta? Sì, la rassegna è composta da quattro film fondamentalmente, quindi quattro importanti film italiani d'autore realizzati da giovani autori, ma prende, diciamo, il via molto tempo fa, cioè praticamente due mesi fa è iniziato tutto il progetto, perché è un progetto che cerca di far avvicinare il nuovo cinema italiano a un pubblico giovane. Quindi in questo caso abbiamo preso quattro scuole di quattro città del Lazio, quindi di Civitavecchia, Rieti, Viterbo e una scuola di Roma, e i ragazzi, attraverso un percorso formativo con professionisti del mondo del cinema e della comunicazione, hanno partecipato alla creazione di queste quattro proiezioni evento che faremo, che abbiamo fatto il 13 a Civitavecchia, domani saremo il 16 dicembre, saremo a Viterbo con Piuma, e poi saremo il 19, due giorni a Roma con La ragazza del mondo e a Rieti con Fiore. Senti, i criteri di selezione quali sono stati? Ma i criteri di selezione, appunto, sono opere di autori, di giovani autori, che hanno insomma un profilo di qualità piuttosto pronunciato, e dall'altro che non hanno avuto una distribuzione particolarmente consona alla loro qualità, ecco. Senti, e per saperne di più sui luoghi coinvolti e sulle date, ci lasci dei riferimenti web? Sì, allora noi siamo innanzitutto c'è il nostro sito, che è www.retedegliespettatori.it, e lì troverete tutte le informazioni, altrimenti, visto il lavoro importante che abbiamo fatto con i social, sulla nostra pagina Facebook, lì è possibile trovare gli appuntamenti con anche dei nomi degli ospiti, perché poi appunto questi appuntamenti saranno seguiti da ogni volta da un ospite, già a cominciare da domani sera. Bluio Scimi, la protagonista del film, sarà con noi al Cinema Trento di Viterbo, insomma. Benissimo. Claudio, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Francesco Patierno, regista del documentario Naples 44, in uscita in sala oggi giovedì 15 dicembre. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buonasera a voi. Allora, intanto spieghiamo cos'è e cosa racconta questo lavoro, Francesco. Allora, questo è una specie di film e una specie di documentario che si mischiano, e che è tratto da un famosissimo all'estero libro di Norman Lewis dallo stesso titolo, che racconta l'avventura di un inglese che si trovò per caso a Napoli nel 44 a seguito della Quinta Armata Americana. E nel 78, con questa esperienza, scrive appunto il libro, che poi è un libro d'amore sulla città e sui suoi abitanti. Francesco, come è rivenuto a conoscenza di questo libro, di questa storia, e come poi hai deciso di metterla in immagini? Ma è stato un pranzo con mio padre. Mi raccontava di come fosse scampato a un bombardamento solamente perché si trovava dalla parte giusta della strada, e mentre tutte le persone dall'altra parte della strada morirono. E in quell'occasione lui mi disse di leggere Napoli 44, perché è un libro che raccontava molto bene di come si viveva a quei tempi, e non solo. E in effetti l'ho letto e subito ho avuto voglia di farne un film, perfezionando un po' il meccanismo che avevo già collaudato nella Guerra dei Vulcani, che era un documentario sulla storia d'amore tra Bergman, Rossellini e Magnani. E da lì ho trovato un produttore che si è entusiasmato come me, coraggioso, deciso, e alla fine siamo riusciti a realizzarlo come volevamo. Francesco, com'è stato materialmente il lavoro d'archivio? Come e dove sei andato a cercare? Ma io non volevo limitarmi a trovare delle immagini solamente in Italia, ma diciamo nel corso di un anno abbiamo rovistato gli archivi in America, in Inghilterra, addirittura in Francia. Abbiamo trovato delle cose sorprendenti, assolutamente inedite. Addirittura in America abbiamo fatto sviluppare proprio dei rulli che non avevano mai visto la luce, quindi è stato un lavoro minuzioso che però è servito molto per, diciamo, riempire la sceneggiatura che avevo scritto appunto dal libro. E c'è tantissimo materiale inedito. Senti, per quanto riguarda lo scritto, quali sono secondo te gli elementi più significativi di questa testimonianza di questo giovane inglese? Ma una su tutte, nell'ultima pagina di questo libro, e stiamo parlando di un inglese, scrive che dopo un anno vissuto a stretto contatto con la città, se dovesse rinascere vorrebbe rinascere in Italia e a Napoli. Detta da un inglese è una frase molto potente, oserei dire politica. Senti, per la potenza poi delle immagini che hai scelto fanno emergere una città in preda alle epidemie, in preda alla fame, alla morte e alla distruzione, il che è sempre un buon lavoro di memoria storica. Assolutamente. Poi io trovo, e l'ho sperimentato su me stesso, che oggi forse per proteggerci siamo poco sensibili a tutte le immagini che vengono dalle guerre che ci sono nel mondo. Ecco, immergersi in una guerra che abbiamo vissuto probabilmente ci può far capire meglio quello che ci arriva dalle immagini tutti i giorni, e specialmente da Aleppo. Diciamo immagini che, su cui non possiamo restare indifferenti, e che possiamo decifrare molto meglio. Senti, rispetto invece agli spezzoni di film? Ma questo gioco di manipolazioni delle immagini è una cosa che mi viene molto naturale. È sorprendente di come film, scene, recitazioni di attori che hanno un significato molto preciso, con un montaggio possono cambiare senso e adattare questo senso a quello della storia che si racconta. È un gioco che mi piace molto, anche divertente, e permette al film di avere un respiro maggiore. Il personaggio principale di Napoli 44 si chiama Vincente Lattarullo, e io appena ho letto di Vincente Lattarullo ho subito pensato a Totò, e infatti in Napoli 44 c'è Totò che interpreta Vincente Lattarullo. Rispetto a quella Napoli in bianco e nero e quella di oggi, ecco, quali sono i tratti di continuità che hai riscontrato, quali i profondi mutamenti invece? Ma Napoli, come tutte le grandi città, specialmente come le grandi città del sud, ha delle preesistenze storiche molto forti, convive con le anime, è una città che convive con le anime del passato, quindi per certi versi è una città che non è mai cambiata. Anche architettonicamente ci sono parti della città che sono rimaste identiche e nel film si vede a quelle del passato. Per altri versi invece è una città che cambia, fortunatamente va avanti, e direi, io che sono molto critico con la mia città, forse negli ultimi due anni si vedono segnali, e parlo comunque culturalmente parlando, di crescita, anche di un forte interesse che viene da fuori. Questo ovviamente mi fa piacere. Francesco, un altro degli elementi forti secondo me del tuo lavoro è il punto di vista proprio di questo giovane che non conosce, si presenta come volontario in una realtà che non conosce e quindi ha uno sguardo sicuramente distaccato e molto obiettivo, e che poi comunque frequentando quell'ambiente comincia ad amare ed apprezzare. Assolutamente, io trovo sempre che uno sguardo esterno sia più preciso nel raccontare una realtà che per chi la vive è troppo vicina per essere descritta fino in fondo. E poi soprattutto parliamo di una persona molto equilibrata, ma che nei confronti di Napoli assume col tempo un sentimento di profonda empatia, e quindi equilibrio ed empatia hanno permesso a Lewis di scrivere, secondo me, il libro più bello sulla città. Senti, i cambiamenti rispetto alla pagina scritta e il documentario, su cosa hai voluto puntare? Ma io ho voluto prima di tutto rispettare profondamente un testo che mi è piaciuto, e poi mi sono preso delle libertà, appunto, come dire, inventandomi il filo conduttore, che è la parte di finzione del film che lega tutti gli episodi dei flashback. E in questo senso è come se avessi avuto il permesso dell'autore, perché ho avuto una forte complicità da parte della sua famiglia. Sono stato nella casa dove ha vissuto, nell'Essex, ho visto un po' tutte le cose che aveva conservato, e poi soprattutto ho avuto il privilegio di tenere per un mese a casa mia i taccuini originali dai quali lui ha tratto Napoli 44. Mm-hmm. In uno dei taccuini scritti nel 78 ho trovato una nota su Napoli milionaria, quindi ho capito che Lewis aveva fatto un po' lo stesso gioco che ho fatto io, cioè anche lui aveva preso da un film che aveva visto più tardi degli elementi di finzione per raccontare poi la sua profonda verità. Ci sono poi tre elementi secondo me che escono più degli altri: la profonda religiosità e molto viscerale con cui hanno vissuto gli eventi i napoletani, e le vicende degli scugnizi, e che soprattutto in relazione agli americani in città, e la prostituzione femminile con dati impressionanti. Assolutamente. Poi una cosa che è venuta fuori inconsapevolmente è sicuramente alla fine una storiografia che va un po', diciamo, si distanzia dalla storiografia ufficiale, soprattutto quella americana. Io penso che probabilmente per un americano sarà piuttosto disturbante vedere questo film, e in qualche modo ho già avuto dei primi riscontri riguardo a questo. Senti, per le sale come è stata la distribuzione? Come sarà? Ma è una distribuzione, intanto parte dalle grandi città. Ieri ho fatto un'anteprima a Milano, ieri c'è stata a Napoli, adesso a Torino. Devo dire, stiamo avendo un riscontro eccellente, e una dopo l'altro stanno chiamando tantissime sale dalle province che, richiamati un po' dal passaparola, vogliono programmare il film. Quindi direi che meglio di così non poteva andare. Sono molto molto contento. Bene. Francesco, allora un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Francesco Patierno, regista del documentario Naples 44, in uscita in sala oggi giovedì 15 dicembre. Ed eccoci con Bruno Pace, regista del documentario Made in Trullo, che sarà presentato al Centro Sociale Occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma, proprio al Trullo, domani venerdì 16 dicembre. Bruno, intanto ben ritrovato a Visionari. Grazie per lo spazio che mi concedete oggi, perché è una trasmissione molto importante, Visionari. Poi parlo dopo Patien, quindi sono... Allora Bruno, avevo avuto modo di vedere il documentario, una copia ancora non una copia lavoro non definitiva, e quindi già un'impressione forte l'ho avuta. Lo raccontiamo intanto a chi ci sta ascoltando di cosa si parla? Sì, diciamo che questo documentario è partito dall'esigenza di voler raccontare un quartiere spesso stereotipato, insomma, dove non si parla spesso del Trullo per, diciamo, per le prestazioni artistiche, mentre invece poi girando poi il documentario, essendo anch'io poi del Trullo, perché questa è la particolarità, si può vedere, chi avrà modo di vedere il documentario potrà vedere che in realtà di realtà, scusa il gioco di parole, artistiche ce ne sono diverse che si esprimono e che comunque hanno anche un loro peso all'interno della città, come ad esempio i Guardi del Trullo, che si trovano, diciamo, è una piccola intervista in voce, perché come sapete loro non si fanno, sono anonimi, quindi non si fanno riconoscere, e quindi ad esempio ho questa intervista in esclusiva loro, dei loro, diciamo, portavoce, che non mi risulta che si possa trovare da altre parti, oppure c'è lo street artist solo, che ha fatto molto famoso, insomma, che ha fatto diverse cose in giro per la città e anche in giro per il mondo, insomma, e che è del Trullo. Quindi ecco, diciamo, ho cercato di seguire una stagione culturale particolarmente interessante che dal 2014, tra il 2014 e poi sei andato via, e il 2016, okay. Sì, diciamo, il documentario ruota su questi anni, ecco, ho iniziato a girare nel 2014 con le prime tinte di colore che sono state date dai pittori anonimi del Trullo, un gruppo di pensionati che si sono particolarmente, diciamo, impegnati in un'opera, diciamo, di autorecupero che ancora continua, e quindi ecco, diciamo, quello è stato lo spunto. Poi da lì ho cercato di seguire tutte le altre, diciamo, pulsioni culturali che c'erano nel quartiere, e ho scoperto, insomma, anche cose che non conoscevo. Ecco, ci sono degli aspetti che chiaramente le accomunano e che hai riscontrato, Bruno? Che accomunano me? No, che accomunano queste varie esperienze che sono nate. Beh, sì, certo, sicuramente, beh, ad esempio all'interno del documentario possiamo vedere come ad esempio lo street artist solo, i poeti del Trullo e i pittori anonimi interagiscono costruendo poi un'opera permanente che è Nina, che è spiegata bene nel documentario, che è una delle opere che è stata fatta appunto da questi tre artisti, da queste tre realtà che comunque in un certo senso, no, cercano, hanno cercato, diciamo, di dare una nuova facciata al quartiere, e in parte, diciamo, che ad esempio un fenomeno che si è sviluppato in questi anni dopo tutti i vari disegni a parete che sono stati fatti all'interno del quartiere è un fenomeno, diciamo, di turismo culturale che si è creato dentro al quartiere. Cioè vengono magari da anche turisti stranieri piuttosto che con la rete intera a vedere i disegni che sono stati fatti nel quartiere, che comunque ritengo che sia un aspetto positivo. sì, sì. Poi sicuramente, data appunto la nascita di questi fenomeni, è proprio il quartiere che evidentemente contiene al suo interno dei fermenti. Volevo sapere da te anche in relazione alle riprese che hai fatto e quindi alle storie che hai seguito, come ha risposto il quartiere a questi fenomeni. Ma sicuramente, ecco, una cosa che posso dire è che i vicini sono ancora là tutti intonsi, quindi probabilmente il quartiere ha risposto bene, nessuno è andato lì a screziare i disegni o le opere che sono state fatte, quindi questo già mi sembra un aspetto molto positivo. Sì. Poi nell'ambito del festival che è stato fatto e che è ripreso all'interno del documentario, è stato fatto un festival di poesia e street art insieme, questo è stato fatto nel 2015. E nell'ambito di quello il quartiere ha risposto in maniera fenomenale, perché è stato, diciamo, la prima volta che viene, diciamo, in parte ristrutturato un quartiere solo con opere, chiaramente con opere pittoriche, ma che è stato fatto completamente in autonomia, cioè non ci sono stati finanziamenti del comune piuttosto che di altre realtà, tutto, diciamo, autoprodotto, no? Quindi questo, in questo il quartiere ha dato una grossa mano. Senti, com'è il rapporto, visto che poi l'anteprima, la presentazione sarà al centro sociale Ricomincio dal Faro, tra appunto il Faro, che è una realtà storica di quel quartiere, un luogo fisico, e queste realtà che un po' sono comunque nomadi, non hanno un punto di riferimento? Beh, sicuramente il Faro, essendo innanzitutto, insomma, è rimasto fin dal primo giorno dell'occupazione anche come il cinema del quartiere, quindi sicuramente, ecco, il Faro ha dato una mano ad esempio nel festival, so che per fare il festival tutte le iniziative, ad esempio hanno suonato il Muro del Canto piuttosto che il Colle del Fomento in quei giorni, per finanziare proprio il festival di street art e di street poetry, e sono state fatte al Faro, quindi in qualche maniera queste realtà hanno interagito, hanno cominciato a interagire con il centro sociale, come giusto che sia, voglio dire, se un posto sta nel territorio, in qualche maniera deve interagire anche con le varie, con certo, i vari fermenti, con le varie diciamo attività che si possono creare all'atere, no? Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, da domani comincia il suo viaggio, che percorso farà il documentario? Beh, la mia speranza è che da domani, insomma, ci possa essere un po' più di interesse rispetto a questo documentario, e che quindi possa trovare una minima distribuzione. Per ora non c'è una distribuzione di questo documentario, come tu ben sai, per diciamo i documentari già di per sé non hanno un grosso mercato in Italia. Questo è un documentario, uso la parola indipendente, però diciamo è ancora più sotto l'indipendente, nel senso che noi ha avuto un budget bassissimo, è stato girato, diciamo, con mezzi abbastanza di fortuna, anche se c'è l'audio separato chiaramente nel documentario, quindi si sente bene, si vede bene, però chiaramente non avevamo una produzione dietro, chiaramente tutti, cioè io ho filmato la regia, ma chiaramente tutti quelli che hanno collaborato al documentario hanno fatto sì che si poteva realizzare, perché senza il loro aiuto questo documentario non sarebbe mai uscito. Ma non so se è il caso di citare tutti i nomi che hanno collaborato nel documentario, però ecco, diciamo che la produzione è stata, cioè, è sicuramente un lavoro collettivo, poi ci hanno messo le braccia, ecco. Certo, sicuramente è un lavoro collettivo. E senti Bruno, a questo punto ci dai pure tutti i riferimenti internet per seguire la sua storia? Sì, c'è il gruppo Made in Trullo su Facebook, e c'è anche una pagina Made in Trullo su Facebook, quello è tanto un modo per poterlo seguire. In futuro probabilmente avremo anche altri diciamo indirizzi, però diciamo per ora sono questi i riferimenti del documentario. Ricordiamo l'appuntamento di domani al Ricomincio dal Faro, domani sera? Sì, certo, domani sera alle ore 21:30, ingresso rigorosamente gratuito, perché comunque abbiamo deciso che insieme agli altri che era un regalo che volevamo fare al quartiere, quindi poi non so se magari in futuro sarà distribuito o andrà in altre sale, non so se sarà ugualmente gratuito rispetto, non so, comunque per noi non è un problema, diciamo, economico, ecco, non pensavamo di guadagnare dei soldi con questo documentario, ma ci premeva e ci preme farlo vedere, ecco. Benissimo. Trovare diciamo i giusti approdi per questo film. Bruno, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Anch'io ti ringrazio molto e invito tutti a venire domani, veramente, e ringrazio i miei collaboratori in diretta. Bene, okay. Un abbraccio a Bruno, ciao. Grazie, un abbraccio a te Federico, ciao ciao. Bruno Pace, regista del documentario Made in Trullo, al centro sociale occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma, venerdì 16 dicembre, domani. Bene, avremmo dovuto fare anche altri due collegamenti telefonici con i nostri ospiti, a partire da Antonio Rezza e Flavia Mastrella, registi del documentario Milano via Padova, che sarà all'Apollo 11 proiettato alla loro presenza, con la loro presentazione domenica 18, ma sono oggi in giornata di riprese video, quindi non sono raggiungibili. E Elfie Reiter, curatrice dell'aggiornamento del libro Werner Herzog, che invece è malata e quindi questa la sentiremo in una delle prossime puntate. Quindi è tutto per giovedì di questa settimana. Non credo che torneremo giovedì prossimo per causa lavoro del periodo natalizio, e sicuramente torneremo prima di Capodanno proprio con le cinquine, cioè con i pareri rispetto ai film usciti in sala durante questa stagione, cioè quest'anno 2016, rispetto ai film e ai documentari usciti in sala, le preferenze di amici e colleghi legati al cinema, per cui ci sentiamo sicuramente giovedì prossimo. I riferimenti sono la pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, la pagina sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page colonna centrale trasmissioni Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, e per ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento e ci sentiamo fra un paio di settimane.